piano. Di Enrico Ruggeri. L'articolo 147 del nostro codice civile riguarda i doveri dei genitori verso i figli e recita così: il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Cosa vuol dire? Che i genitori non sono solo obbligati a mantenere i figli, ma devono provvedere alla loro educazione, alla loro istruzione, ma tutto questo devono farlo tenendo conto dei loro gusti, di quello per cui sono portati. Il legislatore, insomma, si è preoccupato di rendere obbligatorio, di dare forma di legge a qualcosa che dovrebbe essere del tutto naturale. Che ne so, se un figlio odia i numeri ed è portato per la scrittura, è una cattiveria inutile pretendere che da grande diventi un matematico. Insomma, i genitori dovrebbero farsi da parte, non riversare sui figli le loro frustrazioni, le loro speranze disattese, le loro aspirazioni personali, e men che meno obbligarli a una vita che non avrebbero mai scelto. Invece la storia è costellata, e noi l'abbiamo raccontato più volte, di vite rubate, di scelte fatte da padri al posto dei figli per scopi economici, sociali, di casta. Lo vediamo anche oggi in tutti, non so, degli sportivi costretti dai genitori. Pensate a Agassi, pensate alle sorelle Williams, o nella musica pensate al padre di Michael Jackson, del quale abbiamo parlato. Ma oggi andiamo molti anni più indietro e parliamo di uno dei fenomeni più diffusi e più gravi che hanno funestato e influenzato negativamente la società: il fenomeno delle vocazioni religiose obbligate, cioè genitori che imponevano ai figli, soprattutto alle figlie, di prendere i voti, in genere per questioni economiche, e non si contano i ragazzi e le ragazze che sono stati obbligati a questa scelta di vita. E oggi raccontiamo la storia di una di queste ragazze, una giovane vita spezzata, una ragazza obbligata a diventare monaca contro il suo volere, che è diventata famosa per gli sciagurati sviluppi che ha preso la sua vita. La nostra protagonista di oggi è Marianna de Leiva y Marino, diventata Suor Virginia Maria, ma passata alla storia come la monaca di Monza. Molti di voi avranno sentito parlare della monaca di Monza a scuola, perché Alessandro Manzoni ha reso celebre la sua vicenda, l'ha inserita all'interno del suo romanzo meraviglioso dei Promessi Sposi. E molti di voi, soprattutto i meno giovani, si ricorderanno l'affascinante, bellissima, un po' torbida Lea Massari, che interpretò la monaca di Monza nello sceneggiato, nel mitico sceneggiato dei Promessi Sposi, quello diretto dal grande Sandro Bolchi. E Manzoni fa un'operazione molto importante, perché pone l'accento sulla tragica questione delle cosiddette monacazioni forzate, e lo fa romanzando la vicenda vera di Marianna de Leiva. Lui la chiama Geltrude, e tra l'altro nelle diverse stesure del libro, e in un primo tempo, dà ancora più spazio a questa storia quando il titolo era ancora Fermo e Lucia, poi riduce la storia a due soli capitoli. Però in effetti Manzoni riesce a scrivere un romanzo all'interno del romanzo. Era la signora una giovane donna, uscita di sangue principesco, che era stata posta dall'adolescenza in quel monistero e vi aveva assunto il velo e fatta la professione. Aveva essa l'incarico di vegliare sulle fanciulle che erano nel monistero per educazione, e il suo titolo sarebbe stato maestra delle educande. Ma per la sua nascita, per le parentele, per la superiorità che queste le davano sulle altre sorelle, non era chiamata con altro nome che di signora. Ed era da tutte riguardata come la protettrice, la donna principe del monistero, e con una distinzione unica. Due suore erano destinate ai suoi servigi ed abitavano seco lei in un piccolo quartiere che ella teneva invece di cella. La sua protezione e la sua influenza si estendeva fuori delle mura del monistero, e i cappuccini, i quali di generazione in generazione, o per meglio dire di vestizione in vestizione, erano ab immemorabili in rapporto di amicizia col monistero, godevano essi pure di questa protezione. Quindi avete capito, una sorta di clausura privilegiata, con due domestiche, con un'influenza enorme sul mondo che circondava il monastero, però sempre di scelta forzata si tratta. Diciamo che Manzoni nel suo ritratto cambia dei particolari, sorvola su altri, magari sorvola quelli più scabrosi, però la sostanza dei fatti è questa. Oggi però noi raccontiamo la vicenda vera, quella di Mariana de Leiva, dei terribili fatti collegati a lei, lo scandalo di Monza, dei fatti che rendono questo racconto a tratti veramente un dramma umano forte, a tratti una storia magari anche boccaccesca, ma alla fine soprattutto un efferato fatto di sangue. Mariana de Leiva y Marino nasce a Milano il 4 dicembre del 1575, la figlia primogenita di un nobile spagnolo, il conte di Monza Martino de Leiva y de la Cueva Cabrera, figlio del primo governatore spagnolo a Milano Luigi de Leiva. Ricordiamo che in questo periodo la Lombardia è dominata dagli spagnoli, quindi Mariana è una nobile molto ricca anche da parte di madre, perché sua madre è Virginia Maria Marino, figlia di Tommaso Marino, il banchiere milanese, è ricordato poi per la costruzione appunto di Palazzo Marino, quello di fronte alla Scala, oggi la sede del municipio di Milano. Mariana ha un fratello più grande, delle sorelle più piccole. Alla morte della madre si trova piccolissima, erede di una vera ricchezza, e nella divisione a lei spetta proprio Palazzo Marino, e oltre a una fortuna in oro, gioielli, contanti, qui cominciano i suoi guai, perché il padre non vuole lasciare a lei quell'immenso patrimonio. Il falco e il gabbiano. La vicenda di Mariana de Leiva si inserisce proprio nella consuetudine drammatica dell'istituto illegittimo delle monacazioni forzate. Le malmonacate sono delle giovani donne di famiglie altolocate, costrette a entrare in convento contro la loro volontà per rispondere a esigenze familiari di conservazione di uno status privilegiato. La scelta del velo o del matrimonio non viene lasciata alle donne, imposta dalle famiglie in base a questioni esclusivamente patrimoniali. La nascita di una figlia femmina pone un solo quesito: maritar o monacar? E la risposta a questa domanda è determinata da accurati calcoli che tengono conto del numero di sorelle, dei figli maschi, dei beni a disposizione, delle reali opportunità di matrimonio della bambina, magari in considerazione anche del suo aspetto e delle condizioni di salute. Insomma, una famiglia altolocata vuole assicurarsi alleanze importanti, non deve pensare ai desideri delle figlie o alla loro reale vocazione religiosa. E questo porta a una situazione veramente di degrado, di insubordinazione, di scandali, tanto che la Chiesa già nel 1500 con il Concilio di Trento condanna severamente chiunque si renda complice di una monacazione forzata, pena la scomunica, questo almeno a parole. Sottopone il Sacro Concilio all'escomunicazione tutti, e ciascuno di qualunque qualità e condizione si siano, così chierici come laici, secolari e regolari, e in qualunque degnità costituiti, se per qualunque modo averanno sforzato alcuna vergine o vedova o altra qualsisia donna, contra sua voglia, ad entrar nei monasteri, pigliar l'abito di qualsivoglia religione, sapendo quella non entrar spontaneamente nel monasterio. Ma nonostante questo, siccome la monacazione non si fonda su dati strettamente oggettivi, ricordiamo la monaca di Monza che viene fatta giocare con le bambole vestite da suore fin da quando era bambina, insomma le monacazioni forzate continuano. Martino de Leiva, dopo aver fatto i suoi calcoli, sceglie il convento per la figlia Mariana e non si preoccupa naturalmente di quello che lei realmente volesse fare. Il 15 marzo 1589, quando lei ha solo 13 anni, la costringe a entrare come novizia nel convento di Santa Margherita di Monza, nell'ordine religioso degli Umiliati. Due anni dopo, il 12 settembre 1591, lei pronuncia i voti definitivi con il nome della madre Virginia Maria, diventa, secondo la dicitura ufficiale, monaca per sempre, un destino tragico e crudele che per lei è peggio di una condanna a morte. Dopo 12 mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto. Lo ripeté e fu monaca per sempre. Alessandro Manzoni, peraltro, sottolinea questa verità che accomuna tutte le malmonacate. Potrebbero ribellarsi, ma quello che deriverebbe è peggio del monastero. Il rischio è quello di perdere la vita, di venire uccise magari dai padri o dai fratelli. L'unica soluzione è l'accettazione passiva di una vita non voluta, di una clausura, di una castità non cercate e soprattutto non supportate da una reale scelta di fede. Quindi Mariana De Leiva diventa Suor Virginia Maria, però non è una monaca come tutte le altre, perché una volta entrata in convento, insomma, lo scopo principale ovviamente è quello di cercare di aggirare più costrizioni possibili. Lei è una nobildonna, appartiene a una delle famiglie più influenti del Ducato spagnolo di Milano, quindi ha molti privilegi, anche se è rinchiusa in un convento, in quanto feudataria di Monza riscuote tributi, si informa dei problemi della città, risiede in un appartamento separato del monastero, assistita da 4 suore ausiliarie e da 2 dame di compagnia, suor Benedetta Omati e suor Ottavia Ricci, e poi ha una conversa per le mansioni di servizio, Caterina Cassina da Meda. E lei ha un carattere duro, severo, altezzoso, arrogante, picchia le consorelle che non le obbediscono, sfoga su di loro la sua terribile infelicità. Insomma, è facile comprendere che delle donne recluse senza il supporto della devozione non soffrano solamente per la clausura fisica, per le finestre murate, per le porte sigillate, per i giardini messi al bando. La loro disperazione non deriva solo da quello, cioè dall'isolamento fisico, ma anche, forse soprattutto, dall'isolamento emozionale. Ma nella vita di Suor Virginia sta per arrivare un ciclone destinato a sconvolgere tutta la sua esistenza, a cambiarla nel bene ma soprattutto nel male, verso un tragico finale, perché è vero che il convento è un istituto di clausura, però ci sono fornitori esterni, giardinieri, ci sono i religiosi uomini, ci sono le case intorno all'edificio del monastero, fabbricati con finestre, con terrazze, dalle quali vedersi, parlarsi, insomma i contatti col mondo esterno non sono poi così difficili. Dal Boccaccio in poi c'è tutta una letteratura anche piuttosto pruriginosa, oggi ci fa sorridere, però si racconta di incontri nei chiostri, nelle celle monacali, amori proibiti tra religiosi, e insomma tutto questo parlare e scrivere deriva proprio dalla realtà, perché fatti come quelli sono all'ordine del giorno, viste le premesse, vista la mancanza di vocazione religiosa degli interessati. Matilde! Ottavia! Che è successo? Fa tagliare quel ramo al più presto. Ma quell'albero non è nostro. Non discutere, chiami il giardiniere. Forse lei esagera, sorella. Perché voler tagliare questo povero albero per un piccolo bacio che non lo riguarda? Cerca Matilde. Comunque, guardi, la colpa non è di Matilde, è mia. Ma sono pronto a chiederle scuse. Mi guardi, sorella, o ha paura? I puri di cuore non hanno mai paura. Suor Benedetta, per Matilde Zembrini 3 giorni di cella. Sì, madre vicaria. E questa era una scena emblematica tratta dal bellissimo film di Carmine Gallone del 62, La monaca di Monza, cast straordinario, Giovanna Ralli, Gino Cervi, Alberto Lupo, Lilla Brignone, Corrado Pani. È un film che ripercorre proprio l'intera vita di Mariana De Leiva, e in questa scena viene raccontato il primo incontro tra lei, tra la monaca di Monza e il conte Giampaolo Osio, che è il vicino di casa, il suo giardino confina con quello del convento di Santa Margherita. Osio è un bell'uomo, è un noto donnaiolo e non perde occasione per scambiare delle effusioni con le giovani educande del monastero. E la monaca di Monza, la signora, è la maestra di queste educande, e quindi riprende questo Osio, lo sgrida, gli dice che non deve permettersi di mancare di rispetto al convento, che deve lasciare in pace le ragazze e anche le monache, lo tratta molto male come sua abitudine. Ma qualche giorno dopo a Monza viene ucciso con un colpo di archibugio un certo Molteno, agente fiscale dei De Leiva, e si vocifera che il mandante dell'omicidio sia proprio Osio, che si è voluto vendicare della ramanzina pubblica che la signora ha osato fargli. Ricordiamoci, insomma, che siamo alla fine del Cinquecento e uno sgarbo si lava sempre col sangue. E questo è un inizio di conoscenza terribile, molto burrascoso, macchiato da un omicidio. Però in realtà, in periodi appunto in cui l'omicidio non era un fatto così strano, non è che il preludio di quella che è destinata a essere una storia intricata, ricca di colpi di scena, di delitti e di castighi, la classica vicenda dove Eros e Thanatos, amore e morte, si intrecciano pericolosamente fino a un epilogo tutto da scoprire. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è Marianna de Leiva, passata alla storia con il nome di Suor Virginia Maria, la monaca di Monza, che viene costretta dal padre a prendere i voti quando è giovanissima e al centro di uno scandalo famoso che sconvolge Monza all'inizio del Seicento. È vittima di quella consuetudine tragica che erano le monacazioni forzate. Lei vive con grande sofferenza la costrizione familiare che la obbliga a prendere i voti, soffre la reclusione emotiva a cui sono obbligate le monache, però nella sua vita accade questo evento che è destinato a cambiare tutto, spazza via come un ciclone quella incastellatura malvagia nella quale la famiglia l'aveva esiliata. Nel 1597 lei fa bandire da Monza il conte Giampaolo Osio, che vive nella casa di fronte al monastero di Santa Margherita, con un giardino che confina pericolosamente con quello del convento. Il conte era solito amoreggiare con le educande del convento e anche con alcune monache. Suor Virginia lo riprende pubblicamente, lo diffida dall'avvicinarsi al monastero, di importunare le ragazze, e lui per tutta risposta fa uccidere Molteno, un dipendente dei De Leiva, e a questo punto la signora, che è feudataria della città, lo caccia dai suoi possedimenti. Però su pressione dei fratelli, dopo un anno lei fa annullare il provvedimento, perché il conte è anche lui un personaggio influente, anche un violento, uno che non si fa scrupolo di uccidere. Insomma, la situazione è tesa, ma il conte bisogna tenerselo buono. E da quel momento il rapporto tra i due si intensifica. Lei si era arrabbiata, forse anche perché era un po' gelosa del fatto che il conte corteggiasse più le educande che non lui. Insomma, cominciano dei colloqui al parlatorio, dei casti corteggiamenti dalla finestra della camera che affaccia sul giardino della casa di lui. Cominciano dei regali e un giorno accade l'inevitabile. Stando a ragionare tra noi fra l'una e l'altra porta, ragionammo di varie cose. Poi, stando io assentata sopra il basello della prima porta, esso, Osio, mi violentò, gettandomi per terra. E nonostante che io gridassi e dicessi «Ah, traditore, traditore!» dicendogli «Ah, l'onor mio!» dicendogli «La mia verginità, ricordatevi chi io sono!» Ed insomma lui ebbe comerzio carnale meco una volta sola, perché subito, ch'io poti riavermi e levar su, corsi via e lo piantai lì. Eh sì, detta così, con la mentalità di oggi, ovviamente fa orrore questa scena, però dobbiamo ricordarci che nel Cinquecento erano abbastanza frequenti questi tipi di approcci. Pensate a Artemisia Gentileschi e al pittore Tassi. Insomma, l'approccio maschile con le donne non era esattamente fatto di delicati corteggiamenti. Insomma, Osio la violenta, poi le scrive delle lettere dichiarandole il pentimento e il suo amore, e dalla seconda volta in poi, diciamo, non ha più bisogno di violentarla. Lei è più che consenziente e complici, peraltro, le dame di compagnia Benedetta e Ottavia. Lei allaccia Virginia, allaccia una vera e propria relazione fisica totalizzante con Osio, è quello che il Manzoni rinominerà Egidio, e dirà la famosa frase, il Manzoni: la sventurata rispose. Cioè, da quel momento lei risponde: «E come? E Osio, alter ego di Egidio, può cominciare a accedere in vari modi al monastero, con varie connivenze di fattori che gestiscono le aperture e le chiusure delle porte, usando scale con cui scavalcare recinzioni, raggiungere finestre aperte, buchi ricavati nei muri dopo la chiusura delle finestre per volontà di superiori, travestimenti da monaca, duplicati delle chiavi fatte e rifatte anche dopo il cambio delle serrature, insomma tutto ciò che di boccaccesco o, se preferite, di romantico si può immaginare in una vicenda del genere». Insomma, quello che accade a Suor Virginia e Osio è stato raccontato mille volte prima e lo sarà raccontato mille volte dopo di loro. Boccaccio, nel suo Decamerone, racconta diverse storie di questo tipo, come quella di Masetto da Lamporecchio, che si fa assumere come giardiniere in un convento e vive liberamente l'amore con le monache grazie a un astuto trucco, cioè si finge sordomuto, le convince che non potrà raccontare a nessuno dei loro incontri. Insomma, c'è una casistica molto pronunciata in merito. Però al di là del racconto libertino, Boccaccio denuncia con serietà i genitori che obbligano le figlie a prendere i voti. «Che sì, sono stolti, che credono troppo bene che come a una giovane è sopra il capo posta la benda bianca e indosso messo le la nera cocolla, ella più non sia femmina, né più senta de femminili appetiti, come se di pietra l'avesse fatta divenire il farla monaca». Eh sì, Boccaccio comincia a inquadrare la situazione, e non è l'unico, perché poi c'è Pietro l'Aretino, c'è Manzoni ovviamente, c'è Diderot che ha scritto La Religieuse, dove dice una cosa molto forte: occorre una forza d'animo ancor più grande per resistere alla solitudine che alla miseria. La miseria avvilisce, la clausura deprava. E insomma, l'illuminismo fa la sua parte in questa diagnosi. Di questo argomento scrive anche Verga in Storia di una capinera, ne parlano Piovene, Arpino, insomma è un tema molto sentito nel corso dei secoli. E torniamo ai nostri due sciagurati amanti. Suor Virginia e il conte Osio hanno una relazione consolidata che sfocia in due gravidanze. Nel 1602 nasce un maschietto, un putto morto verrà definito, perché muore subito. Nel 1604 invece nasce una bambina, Alma Francesca Margherita, riconosciuta dal conte e affidata alla nonna paterna, una bambina che peraltro Suor Virginia vede spessissimo con la complicità di Suor Ottavia, di Suor Benedetta. E la faccenda avrebbe anche potuto continuare in eterno, perché la monaca di Monza è potente, Osio è anche lui potente, poi è anche un bell'uomo, ci sa fare, le monache subiscono il suo fascino, anzi forse sembra che lui abbia avuto relazioni saltuarie anche con delle altre consorelle. Tutto sarebbe potuto proseguire tranquillo, però si mette di mezzo Suor Caterina Cassina, la conversa, quella addetta alle faccende domestiche. Questa Caterina, forse proprio perché non viene coinvolta nella tresca, comincia a mostrare il suo disappunto, prova a ricattare Suor Virginia e non capisce che si sta mettendo in un guaio terribile, perché quando la suora lo racconta a Osio, lui non ci pensa un attimo, attira Caterina nella stanza di Suor Virginia e ovviamente la uccide. Poi, con l'aiuto di tutte e tre le monache, la seppellisce nel pollaio, fa un buco nel muro di cinta del monastero per far credere che la ragazza sia scappata. E qui il Manzoni dice la famosa frase: se invece di cercare lontano si fosse scavato vicino. Beh, a questo punto le cose cambiano, gli eventi prendono una piega diversa, ben più grave, perché qui non si tratta più di una tresca amorosa. Sì, violare la castità è un delitto grave, punibile, però è spiabile. Qua stiamo parlando di un omicidio, e non di uno solo, perché in queste faccende persone coinvolte ce ne sono tante, e quindi spuntano altri testimoni scomodi. Il secondo a farne le spese è lo speziale Rainero Roncino, che era il farmacista, fornitore del convento, che aveva fornito i medicinali durante le gravidanze, e si trova insomma in posizione tale da poter ricattare la signora, e viene eliminato anche lui da un sicario del conte. E qui i morti cominciano a essere due, si comincia a sospettare. Poi Osio non è esattamente una persona per bene, ha dei precedenti che parlano da soli, la sua fama è nota. E il segreto della sua relazione, peraltro, è un segreto di Pulcinella, cioè lo sanno tutti che lì c'è una storia tra i due. E insomma, le maglie di questa rete di omertà si stanno allargando fino a quando il cardinale Borromeo, arcivescovo di Milano, arriva di persona in visita da suor Virginia. Arriva nel convento di Santa Margherita a Monza. Lei è una donna importante, e lo scandalo si preannuncia come uno di quelli che faranno parlare, che getteranno un marchio di infamia sulla Chiesa. Per questo deve mobilitarsi lui, l'arcivescovo. Lui ha diversi colloqui con suor Virginia. Alla fine, il 15 novembre del 1607, ordina al vicario criminale Gerolamo Saracino di condurla in prigione al convento del Bocchetto di Milano in attesa di ulteriori indagini. Appena lo viene a sapere, Osio finge di voler aiutare le complici di Virginia, suor Benedetta e suor Ottavia, a fuggire. In realtà le vuole uccidere, tenta di ucciderle entrambe perché le ritiene delle testimoni scomode. Ascoltate la deposizione fatta da suor Benedetta. Dopo esserci fermati alle grazie per chiedere alla Vergine di aiutarci, ripercorremmo la strada all'indietro, passando il ponte sull'Ambro. E poco più in là, Osio gettò nel fiume suor Ottavia. E mentre io cercavo di aiutarla a risalire, lui le prese una mano, ma invece di darle soccorso, la colpì alla testa con un archibugio. Io scappai, temendo che volesse colpire anche me. Arrivai ad una casa a 5 o 6 miglia da Monza. La casa aveva la porta aperta e non c'era nessuno. Rimasi lì un giorno e una notte, senza più vedere Osio. Ma poi lui mi trovò e mi gettò dentro a un pozzo. Cadendo mi feci male alla parte sinistra del corpo. Rimasi lì tutto il giorno e la notte seguente, fino a quando alcuni uomini sentirono le mie grida di aiuto. Purtroppo per Osio, quindi, muore una sola monaca per le conseguenze delle percosse subite. L'altra denuncia l'accaduto. Osio è condannato in contumacia alla forca, alla confisca dei beni. Si nasconde scappando in casa dei nobili Taverna in Corso Monforte a Milano, che erano suoi amici di vecchia data, ma non così amici da non tradirlo. Lo uccidono a bastonate e pugnalate e poi gli tagliano la testa e la portano al governatore Fuentes, il governatore spagnolo di Milano. Vogliono intascare la taglia. Il processo canonico si apre nel novembre del 1607, un processo complesso con tante testimonianze di suore, di fattori, delle educande, delle dame di compagnia. Termina il 18 ottobre 1608 con una sentenza che fa tremare. La signora suor Virginia Maria de Leiva, non solo indiziata da molti testi, ma anche per propria ammissione convinta e confessa dei numerosi gravi, enormi e atrocissimi delitti che risultano tutti con molta chiarezza e compiutezza nel processo, trovata colpevolissima, deve essere condannata alla pena della carcerazione perpetua nel monastero di Santa Valeria di Milano. Venga posta in una piccola cella e vi sia rinchiusa. Si ostruisca l'entrata di siffatto carcere con un muro costruito con pietre e calce e sia completamente isolata. Mai, finché avrà vita, possa e abbia la facoltà di uscirne. Sia lasciato solo un piccolo foro nella parete del carcere attraverso il quale possano essere passati gli alimenti o le cose necessarie al suo sostentamento, perché non muoia di fame. E inoltre sia lasciato anche un altro piccolo foro o una finestrella attraverso cui possa avere luce e aria. Così ho sentenziato io, Mamurio Lancillotto, vicario criminale arcivescovile. Murata viva fino alla morte. In realtà il 25 settembre del 1622, dopo 14 anni di clausura totale in una cella di 1,50 m per 2,50 m, suor Virginia viene graziata dal cardinal Borromeo, il muro della cella viene abbattuto, lei rimarrà comunque in clausura fino alla morte, avvenuta nel 1650 per un'artrite, comunque a 74 anni compiuti, che per quei tempi è un'età eccezionale. È una vita lunga quella di Mariana de Leiva, suor Virginia Maria, monaca di Monza. È una vita lunga, ma una vita rubata, mai vissuta veramente a pieno in libertà come avrebbe meritato in quanto essere umano. Eh sì, il tema lo abbiamo proposto più di una volta. Quando noi commettiamo qualche delitto, in realtà quanto è colpa nostra e quanto è colpa delle circostanze? È una domanda che non ha risposte precise, ma certo la storia della monaca di Monza ci fa pensare a quante vite sciagurate ci siano state senza colpe specifiche inizialmente da parte degli sciagurati in questione. Poi ci sono i colpi d'ala verso l'alto e verso il basso. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite sulle quali puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a cercarmi nei miei social, Twitter, Facebook, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.